Benvenuti a tutti gli ascoltatori. Sono Marta e oggi abbiamo il piacere di ospitare il professor Marco Guastavigna, esperto di metodologie didattiche e strumenti per l'apprendimento. Bentornato Marco. Grazie mille Marta. È sempre un piacere essere qui con te e i tuoi ascoltatori. Chi di noi non ha mai disegnato uno schema per comprendere meglio un concetto? Le rappresentazioni grafiche sono diventate uno strumento fondamentale nell'apprendimento moderno. Marco, partiamo dalle basi. Cosa intendiamo esattamente quando parliamo di mappe per l'apprendimento? Vedi Marta, rappresentare graficamente la conoscenza vuol dire avere l'intenzione di organizzare informazioni secondo una logica visiva. È come creare una bussola che ci guida nel mare delle associazioni e delle connessioni tra gli elementi. Le mappe ci permettono di vedere collegamenti e relazioni che potrebbero sfuggire in un testo lineare. Interessante questa metafora della bussola. Ma esistono diversi tipi di mappe, vero? Come possiamo orientarci tra le varie tipologie? Esistono varie tipologie di mappe, ognuna con le sue caratteristiche specifiche. Le più utilizzate sono le mappe mentali e le mappe concettuali. Le mappe mentali sono eccellenti per il brainstorming, partono da un topic, argomento centrale e si sviluppano in modo radiale, mentre le mappe concettuali sono più strutturate e mostrano le relazioni tra i diversi concetti. Quindi la scelta della tipologia di mappa dipende dall'obiettivo che vogliamo raggiungere? Esattamente. Per esempio, se stiamo preparando una lezione o studiando per un esame al termine di un percorso di apprendimento, una mappa concettuale può essere più appropriata perché ci permette di evidenziare le connessioni logiche tra i concetti. Al contrario, se siamo nella fase iniziale di un progetto e vogliamo esplorare tutte le possibili idee, una mappa mentale è più indicata. Mi viene in mente l'esperienza degli studenti che preparano l'esame di Stato. Come possono utilizzare efficacemente le mappe in questo contesto? È un ottimo esempio. Per l'esame di Stato, gli studenti possono utilizzare le mappe in due fasi distinte. Nella fase di studio, possono creare mappe mentali per raccogliere tutti gli spunti e le associazioni tematiche. Successivamente, possono elaborare una mappa concettuale più strutturata che li guidi durante l'esposizione orale. Parliamo delle regole di composizione. Ci sono dei principi base da seguire per creare una mappa efficace? Sì. Ci sono alcune regole fondamentali. La prima è la chiarezza visiva. È importante utilizzare una disposizione spaziale che renda immediatamente comprensibili le relazioni tra gli elementi. Poi, bisogna prestare attenzione alla struttura delle informazioni, partendo dagli elementi più generali per arrivare a quelli più specifici. E per quanto riguarda l'aspetto grafico, quanto è importante? L'aspetto grafico è fondamentale, ma non deve diventare predominante. In qualche caso può essere vantaggioso utilizzare colori diversi per distinguere le varie aree tematiche, oppure usare forme geometriche differenti per evidenziare la tipologia di informazione. Molto più spesso sono le posizioni nella struttura di insieme a permettere o no una buona comprensione. Marco, una delle situazioni più comuni è il passaggio da una mappa mentale a una struttura più organizzata. Come si può gestire efficacemente questa transizione? È un punto cruciale, Marta. Il passaggio dall'ideazione sommaria alla strutturazione richiede di trasformare i topics e i subtopics della mind map in indicatori di parti del futuro testo. È come trasformare un albero con tanti rami in una scala ordinata. Puoi farci un esempio pratico di questa trasformazione? Certamente. Prendiamo come esempio una mappa mentale sui dispositivi digitali. Nella mind map potremmo avere dei rami che si diramano liberamente, smartphone, tablet, laptop, con varie relazioni tra loro. Per trasformarla in una scaletta gerarchica, dobbiamo prima identificare le macro categorie, tipologie di dispositivi, caratteristiche tecniche, impatti sociali. E come si procede con l'organizzazione di questi elementi? Si utilizza una numerazione progressiva, che indichi sequenza e gerarchia. Per esempio, 1 tipologie di dispositivi, 1.1 dispositivi mobili, 1.1.1 smartphone, 1.1.2 tablet, e così via. Questo sistema permette di mantenere una struttura chiara e di vedere immediatamente le relazioni gerarchiche tra i concetti. Mi pare di capire che in questo processo sia fondamentale la coerenza logica. Assolutamente. La coerenza logica è il pilastro di una buona strutturazione. Non basta semplicemente riorganizzare le informazioni, bisogna realizzare dei collegamenti sensati e progressivi che guidino il ragionamento del fruitore. Questo mi fa pensare al ruolo della tecnologia. Oggi esistono molti strumenti digitali per la creazione di mappe. Che impatto hanno questi strumenti sulla didattica? La tecnologia ha modificato il modo in cui concepiamo e utilizziamo le mappe. I dispositivi digitali offrono una flessibilità incredibile. Possiamo modificare, riorganizzare, condividere e collaborare in tempo reale. Questo ha reso il processo di mappatura molto più dinamico e interattivo. Parlando di dispositivi digitali, quali sono i software più utilizzati nel contesto educativo italiano? Nel contesto educativo italiano, uno dei software più utilizzati è CM API Tools, che è gratuito e particolarmente efficace per le mappe concettuali. La gratuità è fondamentale per le scuole pubbliche, permettendo a tutti gli studenti di accedere agli stessi strumenti. Oltre a CM API Tools, quali altre opzioni sono disponibili? Per le mappe mentali, XMind è una soluzione professionale molto potente, mentre Inspiration è particolarmente apprezzato in ambito didattico per la sua completezza. Ci sono anche molte alternative basate sul web, che non richiedono installazione e permettono la collaborazione online. Quali criteri dovrebbe considerare un insegnante nella scelta del software più adatto? Il primo criterio è sicuramente la facilità d'uso. Il software deve essere intuitivo per non diventare un ostacolo all'apprendimento. Poi bisogna considerare la compatibilità con i dispositivi disponibili nella scuola e la possibilità di condividere facilmente i lavori. Non ultimo, il supporto per la lingua italiana e la presenza di modelli predefiniti utili in ambito didattico. A proposito di condivisione, come possono gli studenti collaborare nella realizzazione di mappe? La collaborazione è uno degli aspetti più interessanti dei dispositivi moderni. Gli studenti possono lavorare simultaneamente sulla stessa mappa, in modo mutualistico, ognuno contribuendo con le proprie idee. Questo stimola l'apprendimento cooperativo e sviluppa competenze di lavoro di gruppo paritario e non competitivo. Quali sono i vantaggi generali di un approccio all'apprendimento che utilizza consapevolmente e intensivamente le rappresentazioni grafiche? I vantaggi sono molteplici. Innanzitutto, la visualizzazione grafica aiuta a identificare lacune o collegamenti deboli nella preparazione. Inoltre, la mappa diventa un supporto prezioso durante l'esposizione orale, permettendo di mantenere il filo del discorso senza perdersi in divagazioni. E per quanto riguarda l'uso della LIM in classe, come si integra con questi strumenti? La LIM può essere un dispositivo che valorizza l'utilizzo delle mappe in classe. Permette di costruire mappe in modo collaborativo, coinvolgendo attivamente gli studenti. L'insegnante può guidare il processo di elaborazione in tempo reale, mentre gli studenti contribuiscono con le loro idee. Mi sembra di capire che l'interattività sia un elemento chiave. Esattamente. L'interattività arricchisce la lezione con esperienze di costruzione collettiva del sapere. Quando gli studenti vedono la rappresentazione grafica crescere e evolversi con i loro contributi, si sentono parte attiva del processo di apprendimento. Quali sono le strategie più efficaci per gestire questa costruzione collettiva? Una strategia efficace è partire da una domanda stimolo o da un concetto chiave e invitare gli studenti a proporre collegamenti. È importante dare spazio a tutti, anche a chi è più timido. Spesso utilizzo un approccio a turni, dove ogni studente aggiunge un elemento alla mappa, spiegando il perché della sua scelta. E come si gestiscono i diversi livelli di preparazione degli studenti in questo processo? Le mappe si prestano bene alla differenziazione didattica. Gli studenti più avanzati possono proporre collegamenti complessi o interdisciplinari, mentre quelli con più difficoltà possono concentrarsi sui concetti base. L'importante è che ogni contributo venga valorizzato e integrato nella struttura complessiva, che diventa alla fine patrimonio di tutti. Quali sono i criteri di valutazione per una mappa concettuale? I criteri principali sono la correttezza dei collegamenti, la completezza dei concetti chiave, la chiarezza della struttura e la presenza di relazioni significative, sia inclusive sia trasversali. E per gli studenti con disturbi dell'apprendimento? Come possono beneficiare dell'uso delle mappe? Le mappe sono particolarmente preziose per gli studenti con DSA. Offrono un supporto visivo che facilita la comprensione e l'assimilazione, trasferendo il carico cognitivo sulle loro capacità di elaborazione, da prima stimolata e supportata, via via sempre più autonoma. Inoltre, la possibilità di utilizzare colori, forme e immagini aiuta a creare connessioni e associazioni efficaci. Parliamo della formazione degli insegnanti. Che tipo di preparazione è necessaria? La formazione dovrebbe coprire tre aspetti fondamentali: la parte teorica sulla costruzione delle mappe, l'utilizzo pratico dei software e, soprattutto, le strategie didattiche per integrare le mappe nel curriculum. Mi fai un esempio concreto di come un insegnante potrebbe iniziare? Certo! Un buon punto di partenza è utilizzare le mappe per il ripasso di fine unità. L'insegnante può guidare la classe nella creazione di uno schema mappa riassuntivo, evidenziando i concetti chiave e le loro connessioni. Questo permette agli studenti di vedere l'utilità immediata del dispositivo logico-visivo. E per quanto riguarda la gestione del tempo? Spesso gli insegnanti lamentano che queste attività richiedono molto tempo. È vero, inizialmente può sembrare che si perda tempo. Ma è un investimento che si ripaga ampiamente. Una volta che gli studenti padroneggiano la tecnica, il processo diventa più rapido e il tempo risparmiato nella fase di studio e ripasso è significativo. Marco, parliamo del futuro. Come vedi l'evoluzione delle mappe nell'era dell'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale sta già iniziando a influenzare il modo in cui creiamo e utilizziamo le mappe. Alcuni software stanno introducendo funzionalità di suggerimento automatico dei collegamenti e di organizzazione intelligente dei contenuti. Ma è fondamentale mantenere l'aspetto umano e creativo del processo. Soprattutto, non bisogna farsi catturare dallo specchietto per allodole della sostituzione attraverso l'automazione, che purtroppo trova invece molto spazio sul mercato della conoscenza e dell'istruzione. Questo mi fa pensare al rapporto tra tecnologia digitale e capacità critiche. Come si mantiene il giusto equilibrio? La tecnologia deve essere un supporto, non un sostituto del pensiero complesso. Le rappresentazioni grafiche più efficaci nascono sempre dalla riflessione personale e dal confronto con gli altri. I dispositivi tecnologici dovrebbero sostenere questo processo, non automatizzarlo completamente. E come possono questi sviluppi tecnologici rendere le mappe più inclusive? La tecnologia digitale sta aprendo nuove possibilità di inclusione attraverso la multimodalità e la possibilità di dare spazio alla progettazione universale dell'apprendimento, con diverse modalità di rappresentazione, espressione e coinvolgimento. E per concludere, qual è secondo te la chiave per un uso efficace delle rappresentazioni grafiche nel futuro della didattica? La chiave è nei fondamenti pedagogici. Le rappresentazioni grafiche devono rimanere dispositivi logico-visivi al servizio dell'apprendimento, non un fine in sé. Il problema più importante è però la tendenza alla banalizzazione. Molti insegnanti credono di utilizzare mappe concettuali rigorose, ma in realtà producono e diffondono accrocchi confusi e confusionari. Possiamo fare un breve riepilogo dei punti principali che abbiamo discusso oggi? Certamente. Abbiamo iniziato parlando delle diverse tipologie di mappe e della loro importanza nell'organizzazione visiva della conoscenza. Abbiamo poi esplorato il processo di trasformazione da mappe mentali a strutture più organizzate. E abbiamo dedicato molto spazio ai dispositivi digitali e alle loro applicazioni pratiche. Esatto. Abbiamo analizzato i vari software disponibili, l'importanza della LIM nella didattica e come questi dispositivi possano supportare sia l'apprendimento individuale sia quello collaborativo. Abbiamo anche parlato di inclusione e di accessibilità. Per concludere, quale messaggio vorresti lasciare ai nostri ascoltatori? Il mio messaggio è di vedere le rappresentazioni grafiche non solo come dispositivi didattici, ma come veri e propri catalizzatori di pensiero critico e elaborazione cognitiva. Non abbiate paura di sperimentare, di commettere errori, di trovare il vostro modo personale di utilizzarle. L'importante è mantenere sempre al centro l'obiettivo principale, facilitare e potenziare l'apprendimento. E non banalizzate, studiate, imparate a riconoscere e usare le diverse tipologie. Grazie mille, Marco, per questa ricchissima conversazione. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a te, Marta. È stato un vero piacere. E un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori.